È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo, non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto a Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, e voi sempre convocati al telefono 800 24 0024, venerdì di una settimana dura, primo caldo che si fa sentire. Che... Ciao direttore. Ciao, che non sono direttore, sono uno che conta nulla. Allora, dicevo, prima settimana di caldo vero, stanchezza, forse anche più di... delle meravigliose protagoniste dei playoff italiani di cui poi parleremo, stanchezza che forse si fa sentire in USA in Bolt che perde a Roma da Gatlin, stanchezza ma o netta inferiorità fisica di Sara Errani che perde con Serena Williams, Tyson Serena Williams, ma un grande applauso in piedi alla stessa Sara Errani. Dicevamo, si arriva alla fine della settimana forse un po' scarichi, ma per fortuna c'è uno dei nostri idoli che non ci tradisce mai, Aurelio De Laurentiis. Conferenza stampa, intervento transoceanico da Los Angeles a Radio Marte, parterre de roi in cui c'erano vice prefetto di Napoli, Marinella, famoso stylist di cravatte ben noto anche a Berlusconi, in cui c'era Massimo Corcione, direttore di Sky Sport 24. E allora lezione pontificia di Aurelio De Laurentiis. Meno male che c'è lui. 800 24 00 24. E allora la tavola rotonda convocata ieri, si è parlato di stadio, sentite cosa dice De Laurentiis, che immagina, che favoleggia la costruzione di uno stadio, non a Napoli ma dove? Ci abbiamo un via vai dentro allo stadio durante la settimana, io sono costretto a far dormire con i sacchi a pelo 50 miei steward per evitare chissà che cosa. Sono 5 anni che faccio progettazione sul San Paolo, però mi sono anche stancato, quindi io ho il sindaco di Caserta che mi aspetta a braccia aperte, che mi darà il terreno, che mi darà tutto quello che mi serve, e io in 7-8 mesi gli costruisco un super stadio da 55.000 posti. Fine dei giochi. Ma dove? A Caserta? Io vado lì e vi costruisco uno stadio da 55.000 posti e ve lo pigliate in saccoccia tutti quanti, dice De Laurentiis. 800 24 00 24 per intervenire su ogni argomento vi passi per la testa, naturalmente in materia di sport. C'è Walter da Udine che manda un messaggio in bottiglia via SMS che non capisco sinceramente, 349-238-6666 sulla partita di questa sera dell'Italia in Repubblica Ceca. Stasera, causa reparto offensivo della nazionale, andrò come tanti al cinema. Buona sconfitta, saluti Walter da Udine. Se Walter chiama e spiega perché, io preferisco. 800 24 00 24. Ma torniamo a De Laurentiis, perché molti vogliono sapere quale sarà il Napoli del futuro, quello che verrà assegnato a Benitez. Negli ultimi giorni, come sapete, sono rimbalzati due nomi, anzi un nome importante come quello di Eric Lamela, che è un talento vero, l'abbiamo scoperto. Lamela e Marquinhos, che nel Napoli già gioca. Sentiamo De Laurentiis. Guardi, io ho trattato, se volete sapere, Marquinhos e Lamela li ho trattati direttamente con l'Unicredit, dove c'è un certo signor Fiorentino che, esatto, è preposto ai fatti di, che voleva darmi assolutamente il loro attaccante prima punta. Io ho detto no, io tu parli di Osvaldo? Esatto, ho detto non ho bisogno di Osvaldo, io c'ho il Masta, quindi il giorno che se ne dovesse andare il Masta deciderò perché devo prendere Osvaldo. Io odio la Mira e voglio Marquinhos. E gli ho offerto anche 40 milioni per entrambi. Avete capito, 40 milioni per la Mene Marquinhos non sono mica margherite. Marquinhos si leggeva di un'offerta da 30, da 20, non ricordo, ma da una montagna di soldi da parte del Real Madrid. Ebbene, anche De Laurentiis dice: calo 40 per Marquinhos e la Mela dalla Roma a Napoli. Curioso il fatto che tratti direttamente con Unicredit. Ma questo curioso fino a un certo punto, perché conoscete bene qual è la situazione difficile, inestricabile, impossibile da leggere, soprattutto della Roma. Ci sono altri due giocatori che pare interessino al Napoli, cioè Cerci, che conosciamo bene, e Fellaini. Sentiamo cosa dice Laurentiis. Altra cosa, Fellaini o Cerci? Ma sono due bravi giocatori con dei caratteri diversi, uno più anziano, uno più prospettico. Beh, qui ha preso un mezzo granchio, perché sono due giocatori entrambi classe 1987. Forse sarà meglio dare un'occhiata a Wikipedia, caro Aurelio De Laurentiis, perché sia Cerci che Fellaini hanno la stessa età. Allora, prima di fermarci per il traffico e continuando a divertirci, che è venerdì e ne abbiamo bisogno. Allora, vi ricordate uno degli episodi più divertenti della presidenza De Laurentiis? Qual è? Ma ovviamente quello della fuga con il motorino dopo la stesura dei calendari 2011 e 2012. De Laurentiis ricorda quell'episodio. Poiché a un certo punto avevo mandato l'autista a cena, perché prevedevo di rimanere lì due ore, e a un certo punto mi sono trovato con tutti i giornalisti che non seguivano più la manifestazione, ma che mi inseguivano per la strada, e io camminavo e mi chiedevano, e quindi io appena ho visto un motorino ho detto: questa è la mia salvezza. Ecco. Tutti convocati. Ragazzi, Aurelio De Laurentiis, per me come il Prozac, mi solleva immediatamente il morale. 800 24 00 24, numero verde. Allora, leggo sui siti di un'asta tra Monaco, con l'accento sulla O, quindi quelli del Principato, e Paris Saint-Germain per Cristiano Ronaldo, super offerta dal Principato, 23 milioni di euro. Questi sono i nuovi ricchi che avanzano. Ormai il calcio viaggia a due velocità, ci sono alcune corazzate dentro lo stagno europeo inarrivabili per tutti gli altri. Ricordiamo anche che il Monaco non ha nemmeno particolari vincoli di quel pasticcio, di quella finzione, di quella cosa difficile da leggere, da capire, da interpretare, che si chiama fair play finanziario, perché per tre anni ne sarà esente, essendo una neopromossa dalla Serie B francese alla Serie A. 800 24 00 24, il numero verde. Vittorio, provincia di Genova, e poi andiamo ad Ancona. Ciao, grazie per avermi convocato. Ciao Vittorio. Ascolta, ti sento un po' maluccio perché sono nelle gallerie qui della 12 che piove anche. Piove? Sì, piovigina, ma sono quei temporali di caldo, di calore. Bravo, sì. Ascolta, io vengo perché io sono un ambulante, faccio il mercato a Santa Margherita. C'era un casino che c'erano tutti quelli della Confindustria, sì. E ho sentito che hanno detto anche delle cose giuste, perché qui bisogna che ci mettano mano, perché la gente ha bisogno di lavorare. Oh, ti dico, prima il dovere e poi il piacere. La gente sicuro ha bisogno di lavorare, e questo governo deve far vedere che è diverso dagli altri. Perché dunque, come ha detto il rappresentante dei giovani della Confindustria, scoppiano casini. Sì, ma come va, Vittorio? Come va la storia sui mercati? Sui mercati va male, online? Guarda, la va gente male. Non c'ha soldi, hanno abbassato tutti i target, più di 10-15 euro la gente non spende, e quelli che hanno i soldi che potrebbero spendere non spendono, perché magari c'ha il marito che è in bilico e dice: è meglio che mi conservo 100 euro in banca piuttosto che spenderli, perché se me lo mettono in cassa integrazione così c'ho un po' di soldi da parte. Sì, la mi servono per pagare la bolletta, tutti noi facciamo di questi conti, Vittorio, fino a quando non si riparte io la vedo brusca. La Confindustria sta rispondendo a muso duro e fa benissimo. Certo, dimmi. Il mio presidente, io sono tifoso, sono simpatizzante del Napoli, e mi fa piacere che anche lui ha le idee chiare, perché adesso, mai come adesso, bisogna avere le idee chiare. È un presidente serio, ha fatto dei buoni affari, ha fatto ritornare in gloria il Napoli dalla Serie C, l'ha portato sino di nuovo alla Coppa dei Campioni. Io spero che non ci sia in qualche angolo del pianeta qualche tifoso che non sia d'accordo con me, perché dobbiamo solo essere riconoscenti al presidente De Laurentiis, che ci ha messo della sua faccia e soprattutto dei suoi soldi. Sono d'accordo, ma poi sai cosa? Una politica estremamente chiara, cioè non si bleffa, al di là dell'ironia che si può fare, delle risate che facciamo, perché De Laurentiis è un personaggio che a me è estremamente simpatico, e quando fa queste cose, insomma, mi diverto, no? Queste conferenze stampa interplanetarie. Però è uno che ha le idee chiare e che ha una politica molto chiara. Saluto il nostro amico ambulante di Genova, a cui auguro le migliori fortune dal punto di vista professionale. È uno che ha le idee estremamente chiare e che ha una politica estremamente rigorosa. Cioè si spende il giusto, gli ingaggi sono contingentati, nel senso che nessuno deve guadagnare più di un tot, perché sennò diventa un problema. Con Lavezzi e con Cavani si è adottata una politica, anche in questo caso magari non dichiarata ma estremamente chiara, cioè stai qui ancora un anno e poi ti vendo. È stato detto chiaramente a Lavezzi, e credo sia stato detto altrettanto chiaramente a Cavani, che deve ancora peraltro trovare un acquirente. Però insomma, De Laurentiis, al di là del colore che può fare, al di là delle buttade, delle dichiarazioni eccetera eccetera, è uno che ha una gestione estremamente rigorosa del Napoli, non transige da queste regole di base, e secondo me fa benissimo. Massimiliano, provincia di Ancona. Sì, ciao Carlo. Ciao. Rispondo alla convocazione. Bravissimo. Bene, senti, no, io volevo fare una specie di parallelismo tra il campionato di basket e quello di calcio. Ieri ho visto la semifinale molto bella di basket e stavo pensando che 30 anni fa, quando Roma vinse lo scudetto, la finale vinse 2-1 con Milano, quindi 3 partite. Adesso hanno dilatato, è diventata una cosa che non finisce più. Per carità, è bello, però insomma è davvero una cosa esagerata. E il calcio allo stesso modo, il campionato di Serie A, 20 squadre, per non parlare della B, insomma, che fanno addirittura i playoff. Sì. Siamo in una fase chiaramente economica, no? Abbastanza, è chiaro, di recessione. No, la Serie C, la terza serie, hanno tolto delle parecchie squadre, quindi hanno ridotto. La Serie A, 20 squadre, è secondo me proprio una cosa davvero anacronistica e neanche tanto, tanto bella. Ma no, ma io sono d'accordo, sono d'accordo con te, Massimiliano, ma questa sorta di gigantismo che adesso, per ragioni contingenti, ad esempio nella pallacanestro, può sembrare eccitante, emozionante. Abbiamo avuto un record impressionante di gare 7, però se fossero state gare 5, quindi belle comunque, al termine di una serie sufficientemente lunga, non sarebbe cambiato niente. Io credo che i giocatori arrivino a questo punto della stagione esausti. Se vogliamo, ne parlavamo anche ieri, se vogliamo parlare di qualità, parliamo di qualità; se vogliamo parlare di adrenalina o di corsa contro la consunzione fisica, parliamo di altre cose. Sono belle perché i giocatori non ne hanno più, danno tutto ma non ne hanno più. Allora parliamo proprio di basket e di questa Roma che vola in finale davanti al Palatiziano, eliminando Cantù contro pronostico, aspettando Varese, che può, insomma, questa sera decidere che la finale del 2013 sarebbe bellissimo, eh? Sarebbe quella degli underdog, Varese contro Roma, io faccio tifo per questo. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao, coach cantante. Ciao Carlo, ormai è proprio la theme song della puntata. Questa ogni, è la theme song. Yeah. Grazie per questo. Yeah, yeah, yeah. Coach, io continuo a essere contrario a queste serie molto lunghe, anche se i fatti raccontano il contrario, cioè raccontano di una spremuta di adrenalina, di emozione, di eccitazione, di Roma che batte Cantù, racconta di giocatori che giocano zoppi con le stampelle, infiltrati, però insomma, ovviamente onore a Roma, però secondo me lo spettacolo è un'altra cosa. Carlo, bisogna cominciare prima. Cosa è successo? Innanzitutto mi sta bene il campionato 16 squadre e 30 partite, ma per le squadre di Eurolega che influenzano il calendario della Serie A con 10 partite della prima fase, 14 della seconda fase, il campionato, la stagione regolare del basket Serie A viene allungato, poi per finire in tempo devono comprimere tutte le date dei playoff. Questo è il guaio. Se la Eurolega potesse fare tutto alla fine e lasciare i campionati fare tutto prima, è una campagna che faccio da quando sono in Italia e nessuno mi ascolta, sarebbe diverso. Tutto questo risultato del fatto che si deve aspettare la Eurolega, perché finisce il campionato un mese prima. Anche 4 su 7 andrebbe bene ogni 3 giorni, non ogni 2 giorni, sarebbe al ritmo, sì, certo, del 10, non, certo, non certo. Ritmo frenetico come adesso. Certo, certo. Detto questo, ricordiamo, come sottolinea Costantino, i 20 anni dalla morte di un giocatore indimenticabile come Drazen Petrovic, e lo facciamo senz'altro. Roma che arrivi in finale, coach, io dicevo, permettimelo, faccio il tifo per la finale degli underdog, cioè Varese contro Roma, io credo che se insomma né io né te avremmo scommesso mezzo no. euro su questa finale no, a settembre, il primo Carlo, settembre, coach. Carlo, anzi, facciamo avanti indietro, anzi io ammetto davanti a tutti in onda adesso, prima dell'anno, diciamo agosto, settembre, dire Roma lotta per non retrocedere, non dimentichiamo, c'era Totti rimane, Totti va via, c'è il presidente proprietario, avranno i soldi, possono fare iscrizione, la fideiussione, c'è tutta la discussione, budget ai minimi storici, infatti non hanno aggiunto, ma neanche nessuno, ok, quindi o Bailey o qualcuno così, però vuol dire non come Ragland a Cantù o alle altre squadre che hanno potuto aggiungere qualcosa, certamente non Becirovic e Gordon come ha fatto Sassari, tanto per dire, ok, quindi loro con budget minimo storico, senza poter fare cambio, un super lavoro della società e soprattutto di Marco Calvani, perché ieri la difesa di Roma è la prima volta che vedo una difesa togliere qualcosa da Cantù, cioè Cantù generalmente è una macchina, un orologio svizzero. Ieri sera non era così, perché Roma ha fatto gli aiuti, i raddoppi, i recuperi e ha reso la vita molto complicata per Cantù. Quindi Calvani, cioè, ha fatto un lavoro. Senti, veramente strepitoso. Coach, per chiudere, dimmi un motivo soltanto per cui Varese può sperare di sbattere fuori Siena. Well, il Varese ha qualche difficoltà perché Dunstan non è 100%, come sappiamo. Se lui non riesce a giocare, ovviamente Varese ha le sue possibilità. Se no, poi non, io non vorrei mai sottovalutare sia una squadra dei killer, dei lottatori abituati a vincere, che non, dicono che il campione non è quello che vuole vincere, che ama vincere, è quello che odia perdere e loro odiano perdere, quindi occhio a Siena questa sera. Però Varese deve giocare al massimo e non devono fare troppi palleggi. Mike Green sta palleggiando molto, vorrei vedere lui palleggiare meno, e deve giocare da squadra e non con le incursioni singole che finiscono sfondamento, tiro stoppato, palla persa, tiro sbagliato. Dimmelo con la tua voce, mai sottovalutare l'orgoglio del campione in americano. Never underestimate the champion. Ciao coach, ti abbraccio. Ciao, ciao coach Peterson. Allora, prima di chiudere questo blocco, le parole di Gigi D'Atome, MVP di questa stagione dopo gara 7. Io mi ricordo che, a parte lo sappiamo, la squadra non poteva essere iscritta, è stata costruita per la salvezza. Io mi ricordo che avevo vinto a Pesaro, ero felicissimo, dai, che questa è una vittoria importante per lo scontro salvezza. Adesso siamo in finale, è una cosa allucinante, però questo è un anno che porterò sempre nel cuore, perché indipendentemente da come andrà. Tutti convocati. Torniamo con gli ascoltatori. 800240024. Siete sempre convocati, amici miei, anche gli sms 349-238-6666 ogni giorno dalle 2 alle 3. E siete la cosa più bella del mondo, almeno per me, mi diverto da morire. Beh, la cosa più bella del mondo è esagerato, ce ne sono altre due o tre che mi piacciono di più. Paolo, provincia di Treviso. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Volevo parlare di basket NBA. Sì, lo facciamo anche tra poco, tra l'altro. Sono estremamente contento della vittoria degli Spurs. Anch'io. E spero che coronino, diciamo, il ciclo, perché penso che questo sia l'ultimo anno. Sì, è l'ultimo, certo, è l'ultimo ballo, io credo, per questi Spurs infiniti. E una piccola tiratina d'orecchie al conduttore. Sì. L'unico pronostico che ha azzeccato è il mio: non ho passato l'esame di diritto commerciale. No! Sono l'autore di quell'SMS. No! Come si chiama il professore? Professoressa Giuliana Martina, no vabbè, ma... La chiamo io. Gentile, 17:30, sembra una presa in giro. No, mi spiace da morire. Ma ci mancherebbe. Beh, Paolo, ricomincia a studiarlo. La prossima volta, dai. Diritto commerciale io ho preso 30, se vuoi ti do ripetizioni. Beh. Io sono laureando in economia. Ah, in economia, no, io ho studiato legge, diritto commerciale era andato bene, sarà per la faccia di tolla che mi ritrovo, però alla professoressa ci penso io. Va bene. Se passo, pranzo pagato a Treviso. Ma anche se non passi pago io, facciamo così. Quanti anni ha? 41, studente lavoratore. Studente lavoratore, dai, passo io che ci beviamo 6 bottiglie di prosecco e poi andiamo a pranzo. Sì. Va bene? Aspetto volentieri. Ciao Paolo, in bocca al lupo. E complimenti ancora. Grazie. Questo è il pronostico che più mi dà dolore. Roberto, provincia di Milano. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. Io sono un canturino dispiaciutissimo per la partita di ieri sera. Mancherebbe. Però mi sarebbe molto piaciuto vederla in finale, perché come per gli Spurs, come diceva il collega prima, questo penso che sia l'ultimo ballo del gruppo, così com'è, e soprattutto di Trinchieri, e mi dispiace che non sia arrivato in finale. Sono d'accordo. Le partite sono belle da vedere, l'adrenalina è tutto. Sì, ma ti piacciono queste serie al meglio delle sette? A me, cioè, al di là del, cioè, i fatti mi stanno dando torto, no? Però a me sembrano delle serie allo sfinimento. Queste sono troppo vicine, come diceva sono, il coach prima. Sono troppo vicine, sono troppo ogni vicine. Due giorni. Ci vorrebbe un giorno in più. Allora sì. No, ma Roby, alle 5 va bene lo stesso, perché non toglie nulla all'intensità delle serie, semplicemente dà un po' più di riposo ai giocatori, dà un po' più di tempi di recupero. E io credo che, insomma, giocare una bella che sia la settima, giocare una bella che sia la quinta, non tolga niente all'adrenalina, non tolga niente all'emozione, non tolga niente allo spettacolo, anzi, possa forse aggiungere a questo punto della stagione, dopo 70 partite, qualcosa di più allo spettacolo. A me sembra qualcosa di eccessivamente crudele, e anche forse di una crudeltà ingiustificata nei confronti delle squadre, dei giocatori reduci da stagioni così, e sappiamo che i roster sono quelli che sono, le energie pure, giocare al meglio delle sette, chissà poi perché, non credo ci possano essere nemmeno grandi vantaggi al box office. Questa è una mia impressione, cioè non è detto che giocando al meglio delle 7 gli incassi si moltiplichino per 7 volte, giocando al meglio delle 5 si guadagni di meno al box office. Ripeto, ci fermiamo, no, non ci fermiamo per un attimo, abbiamo il professore. Prende il tiro da 3, lo mette, colpo da di biliardo al tabellone. Più due match. La partita si accende, la serie decolla. Il palleggio per Michael Jordan. È al spazio. Tutti lo aspettano. Può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Michael Jeffrey Jordan. Ciao Flavio, tranquillo. Buongiorno. Ciao, senti, dimmi prima la tua su il tuo pensiero su queste sette partite italiane, poi andiamo su altri argomenti ovviamente. Ma ovviamente bisognerebbe vedere da che parte la guardiamo. Di certo, visto il risultato, il numero di gare 7 è talmente elevato, la gara 7 è sempre un grossissimo valore, come dice Eric Spoelstra, è quello che poi ti ricordi tra 20 anni. Detto questo, secondo me quello che stride è una stagione regolare in cui si gioca una volta alla settimana e poi dei playoff in cui si gioca una volta ogni due giorni. Quello che manca è il ritmo, l'abitudine dei giocatori, di chi guarda, di chi sta attorno e di chi paga il biglietto. Se si va in quella direzione, che secondo me è quella giusta per mille motivi, ci devi andare più o meno sempre e organizzare la stagione in una maniera più coerente. Sì, però se Siena 72esima partita dell'anno questa sera, secondo me sono serie sovradimensionate rispetto alle risorse fisiche degli organici delle squadre di Serie A. Sicuramente, anche perché, ripeto, non sono state costruite, progettate e abituate a giocare a questo ritmo. Questo di sicuro. Poi ovviamente giocano due squadre che sono ugualmente non dimensionate, quindi questo non altera il rapporto tra di loro, può alterare magari la qualità, diciamo, di quello che si vede. Senti, invece NBA stanotte, gara 1, Tony Parker dopo essere caduto per terra vince San Antonio. È chiaro che è una sfida tra una dinastia forse non così scintillante, luminescente, patinata come quella dei Celtics, come quella dei Lakers, come quella dei Bulls di Jordan, una dinastia fondata sulla pallacanestro più pura, che è quella di San Antonio, probabilmente, anzi certamente per questa squadra l'ultimo ballo. Da Coach Popovich ai protagonisti in campo, Duncan, Ginobili, Parkeri, le tre superstar, contro LeBron James, che invece vuole aprire una sua propria dinastia. Io credo che sia questo il senso, lasciami dire, filosofico della finale. Ma la prima parte senz'altro, e quella degli Spurs è una dinastia, anche se non vinceranno questa serie finale, è una dinastia perché 16 anni a 50 vittorie significa aver sconfitto il sistema. Sì. Hai citato i Celtics hanno fatto delle grandissime cose, ma non c'era un sistema che fosse disegnato per fermare una squadra che facesse 11 titoli in 13 stagioni. Adesso il sistema è disegnato per questo e invece gli Spurs lo hanno sconfitto, che vincano o non vincano la serie finale. Dall'altra parte c'è una squadra che dinastia non potrà diventare, proprio perché il sistema non glielo permette e il sistema è stato ulteriormente, diciamo, incrudelito da questo punto di vista, perché Miami nel 2014 non potrà permettersi di pagare 100 milioni solo di tassa di lusso per tenere i tre giocatori principali, anche perché per l'elementare motivo che comunque con loro poi dovremmo giocare io, te e qualche ascoltatore. Questo per il senso filosofico. Però detto questo, non farei di Miami solo bling bling, come dicono di là, cioè la roba che luccica. Miami è la squadra che meglio in queste ultime due stagioni si è adattata all'interno di una serie di playoff. Tante volte ha perso gara 1 o ha fatto fatica all'inizio della serie, e tante volte ha cambiato la serie in corsa, e questo è un qualcosa che va tenuto molto presente. Sì, è difficile però non provare grande ammirazione nei confronti di gente che ha fatto a modo suo la storia della pallacanestro, ti ripeto, in maniera meno patinata di tante grandi squadre del passato, no? In maniera molto più così sotto traccia e in maniera molto più vicina ai valori della pallacanestro, se vogliamo, perché San Antonio tante volte ha giocato una pallacanestro vicina alla perfezione pur senza avere quei personaggi che ti permettono di guadagnare mille copertine. Secondo me è la storia sportiva più interessante, più bella, più, sì, più profonda, sì, nella pallacanestro di sicuro, da quando la seguo io, ma sarei pronto a scommettere anche una delle prime 10 se non 5 dell'intero sport mondiale. È una storia che andrebbe raccontata con attenzione e che è predicata sui valori a cui hai fatto cenno tu, sicuramente. Grazie Flavio, buon lavoro in queste notti. Grazie a voi. ti seguiamo naturalmente, almeno io ti seguirò dato che non riesco mai a dormire o non voglio mai dormire. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Gabriel da Roma, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Allora, prima di andare a Roma, da Gabriele a Bologna, da Massimiliano, io voglio farvi sentire le parole di Sara Errani, che ieri ha perso e perso male con Serena Williams, che in questo momento almeno e in queste condizioni di fisiche e di salute è troppo per la giocatrice italiana, ma proprio dal punto di vista fisico. Sentiamo cosa ha detto Sara. Difficile, non penso di poter servire a 170, nel senso che a parte quello devo migliorare tutto, devo migliorare fisicamente, ma non per Serena, in generale bisogna migliorare sempre, è importante star lì e provarci, questo lo faccio e per questo dico anche che oggi mi sto, da un certo punto di vista mi sono divertita, non avevo nessun che dici me ne voglio andare, no, mi piaceva la situazione pur prendendo pallate da tutte le parti, mi è piaciuto il fatto, il mio atteggiamento, mi è piaciuto crederci e lottare per davvero dentro. Questa era Sara Errani, che ha ancora ovviamente il doppio con Roberta Vinci, ricordiamo che sono le numero uno al mondo. Ragazzi, noi siamo qui tutta l'estate e io voglio parlare con voi ogni giorno, 800 24 00 24, quindi andate in vacanza, non andate in vacanza, lavorate, state sempre collegati con noi e con tutti i convocati dalle 14 alle 15 e fate sentire la vostra voce, se no io non mi diverto. Io, noi insieme, tutti insieme non ci divertiamo. Saverio, Milano, buongiorno. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Per avermi convocato. Grazie a te. Io voto capito a fagiolo, poverina, sto parlando della Errani. E quello che stavo pensando, ho pensato ieri sera, quella Williams lì, innanzitutto non era lei, perché lei non poteva venire, ha mandato un fratello grosso. No, beh, no, ha mandato un fratello grosso. Sì, con grossa di suo, era... no. Chico, è grossa sì. Di suo, guarda. E allora è una iena, è una iena fisicamente. Siamo noi, ha smurzato, ha fatto la medicina con tritolo e ha bevuto nitroglicerina, perché non è possibile rispondere a 200 all'ora. Non lo so, però sai quando affronti una tennista di con le caratteristiche di Sara Errani, la super potenza di Serena Williams diventa ancora più evidente, a mio parere. Sì, cioè, sì, è sì, la tennista più potente, più violenta, se vogliamo, agonisticamente del mondo. È quello che sto dicendo. E comunque, oltre ad averlo anche anatomicamente il sederino, dico, no, cioè, ieri poi dopo gli andavano anche tutte bene, proprio sulle riga, sì, i trace di file. Però Saverio, il risultato è incontestabile, cioè non ci permette neanche di, cioè il punteggio numerico è incontestabile, non ci permette neanche di dire ha avuto fortuna o queste cose qui, insomma, semplicemente Sara è stata dominata dal punto di vista fisico in modo brutale da una Serena Williams che io credo sia in questo momento imbattibile per chiunque sulla terra rossa, in questo momento imbattibile a Roland Garros, quindi è anche difficile trovare delle giustificazioni, e non è giusto trovare delle giustificazioni. Sara Errani ha fatto un torneo meraviglioso, ma contro questa onestamente non poteva vincere, semplicemente non poteva vincere. Gabriel, Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a te. Allora, io invece volevo intervenire per quello che riguarda il basket. Io sono un tifoso della Virtus. Palazzetto? Sarai al palazzetto per le finali? Me lo auguro tanto. Devo dire che i 15 minuti hanno bruciato tutti i 3.000 biglietti che erano. Appunto, parlami un po' della situazione logistica dei biglietti, perché il Palatiziano è diventato molto, improvvisamente un hangar troppo stretto. Molto semplicemente. Sì. Tutta la stagione è stata una stagione dove 2.500 posti potevano essere sufficienti, anzi sono stati più che sufficienti per tante tante partite. Oggi, se Dio vuole, davanti a 4 o 3 gare di finale che ci aspettano, probabilmente non basterebbe forse il Palaeur, però il problema è il rischio è che 15.000 persone che porterebbe il Paleuro 13.5 che dir si voglia probabilmente possono risultare una cosa troppo grande per quello che oggi Roma è disposta a dare a una squadra che veramente merita tanto amore. Sì, è che se l'è conquistato sul campo questo amore. Conquistato sul campo, se lo sono conquistati i giocatori giocando con un allenatore che nessuno avrebbe mai dato come allenatore vincente. No, ma Gabriel, è chiaro che tu lo sai perfettamente, è la classica squadra di underdog, allenatore compreso, perché Calvani mai aveva allenato Roma dall'inizio, era subentrato in altre occasioni, ultima delle quali al posto di Rinolardo. Come ricorderai, però Roma ha vissuto le ultime stagioni sopra probabilmente le sue possibilità economiche, buttando un sacco di quattrini, inseguendo sogni di grandezza che non le erano propri. In questa stagione è riuscita a iscriversi all'ultimo momento, a costruire una squadra, a regimentare i salari, perché non dimentichiamo che lo stesso Datome, miglior giocatore di questa stagione, si è autotagliato lo stipendio pur di rimanere lì, quindi è una storia bellissima quella di Roma, se vogliamo. È chiaro che il Palatiziano diventa improvvisamente inadeguato, però secondo me sarebbe anche ingiusto trasferire questa serie dal punto di vista sportivo in un luogo che la squadra non conosce, in un luogo diverso come il Palaeura. È chiaro che permetterebbe di avere più incassi, più pubblico, eccetera, eccetera, ma la casa di Roma è quella lì e quindi gli invitati saranno pochi, però è giusto che si giochi lì, dal punto di vista sportivo. Massimiliano, Bologna, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie della convocazione. Un attimo, Massimiliano, allora, per rispondere totalmente anche a quelli che ci scrivono via SMS, questa sera gara 7 tra Varese e Siena, per rispondere a Giacomo, si vedrà, almeno secondo i palinsesti ufficiali, alle 20.30 su Rai Sport 2, quindi diretta prevista per questa gara 7. Poi se cambieranno qualcosa non lo so, però i palinsesti ufficiali dicono questo. Dica. Bene, ci saremo. Allora, no, volevo fare una considerazione, premesso che spero che vinca Varese questa sera, però alla luce delle 5 partite avremmo comunque una finale diversa. Perché? Perché alla luce delle 5 partite sarebbe passata. Secondo me non è correttissimo, però, Max, fare questo discorso. Perché è chiaro che se sai che giochi alle 7, sai che giochi alle 5, giochi in un modo diverso. Non tagli la serie. Si gioca per no? vincere ogni partita, secondo me. Ma certamente, però. Io sono d'accordo sulle 7, veramente. Cioè, se si vuole le 7, se si vuole il sangue, si ha il sangue, insomma, se si vuole l'adrenalina, si ha l'adrenalina, se si vogliono le caviglie dei giocatori, si hanno le caviglie dei giocatori. Secondo me non le squadre italiane non sono strutturate per giocare a questo ritmo in modo così ravvicinato, quindi non credo che 5 partite avrebbero tolto qualcosa allo spettacolo che abbiamo visto, che è stato bellissimo, anche se poi i fatti mi smentiscono. Vabbè ragazzi, questa è una delle mie canzoni preferite. Ringrazio Franco Piantanida in redazione, in autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia. Vi regalo questa e vi saluto, ci sentiamo domani per il magazine, ciao a tutti. Underestimate the champions.